Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Era un martedì. Non saprei dire perché, di lì a pochi giorni, il sabato di quella stessa settimana, mi risolvessi a fare proprio il contrario di quanto mio padre desiderava. Escluderei che c'entrasse il solito meccanismo di contraddizione che induce i figli alla disubbidienza. A invogliarmi improvvisamente a tirar fuori la racchetta e i vestiti da tennis che riposavano in un cassetto da più di un anno, forse non era stata che la giornata luminosa, l'aria leggera e carezzevole di un primo pomeriggio autunnale straordinariamente soleggiato. Sta il fatto, ad ogni modo, che nel frattempo erano accadute varie cose. Prima di tutto, credo a 2 giorni di distanza dalla telefonata di Alberto, dunque il giovedì, la lettera che accoglieva le mie dimissioni da socio del circolo del tennis Eleonora d'Este mi era effettivamente arrivata. Scritta a macchina, ma con tanto di firma in calce del nobiluomo marchese Ippolito Barbicinti, la raccomandata espresso non indugiava in considerazioni personali e particolari. In poche righe secche secche, maldestramente echeggianti lo stile burocratico, andava dritta allo scopo. Si limitava a richiamarsi alle precise direttive impartite dal segretario federale, dichiarando senz'altro inammissibile, sic, una ulteriore frequentazione del circolo da parte della mia signoria illustrissima. Poteva mai esimersi il marchese Barbicinti dal condire ogni sua prosa di qualche svista ortografica? Si vede di no. Ma a prenderne nota e riderne, questa volta, era stato un po' più difficile delle precedenti. In secondo luogo, mi pare il giorno successivo, venerdì, c'era stata per me una nuova chiamata al telefono proveniente dalla Magna Domus, e non più da parte di Alberto, questa, bensì di Nicole. Ne era venuta fuori una lunga, anzi lunghissima conversazione, il cui tono si era mantenuto, per merito soprattutto di Nicole, sul filo d'una normale, ironica e divagante chiacchierata di 2 stagionati studenti universitari, fra i quali, da ragazzi, può anche esserci stato un tantino di tenero, ma ora, dopo qualcosa come 10 anni, non hanno altra mira che di fare un'onesta rimpatriata. «Quanto sarà che non ci vediamo?» chiesi. 5 anni, a dir poco», rispose Nicole. «E adesso come sei?» «Brutta. Una zitella col naso rosso. E tu?» «A proposito, ho letto che cosa?» «Ma sì, sui giornali, che hai partecipato ai littoriali della cultura e dell'arte a Venezia 2 anni fa. Ci facciamo onore, eh? Complimenti. Già, ma tu sei sempre stato molto bravo in italiano, fin dal ginnasio. Meldolesi era veramente incantato di certi tuoi temi in classe. Credo che ce ne abbia perfino portato da leggere qualcuno. C'è poco da prendere in giro. E tu che cosa fai?» «Niente. Avrei dovuto laurearmi in inglese a Ca' Foscari lo scorso giugno. E invece, ma che? Speriamo di farcela quest'anno, pigrizia permettendo. Credi che i fuoricorso li lasceranno finire ugualmente?» «Mi rendo conto di darti un dolore, ma non ne ho il minimo dubbio. Hai già preso la tesi?» «Per prenderla l'ho presa. Su Emily Dickinson, sai, quella poetessa americana dell'Ottocento, quella specie di donna terribile. Ma come si fa? Dovrei stare continuamente alle costole del professore, passare a Venezia degli interi 15 giorni, mentre a me la perla della laguna, dopo un po'. In tutti questi anni ci sono stata il minimo necessario. Inoltre, francamente, studiare non è mai stato il mio forte. Bugiarda. Bugiarda e snob. Ma no, giuro! E quest'autunno di mettermi lì, buona, buona, me la sento meno che meno. Lo sai che cosa mi piacerebbe fare, caro te, invece che seppellirmi in biblioteca? Sentiamo. Giocare a tennis, ballare e flirtare. Figurati. Onesti svaghi, tennis e ballo compresi, a cui, volendo, potresti benissimo darti in Venezia. Sicuro, con la governante dello zio Giulio e dello zio Federico sempre alle calcagna. per il tennis non mi dirai che non potresti farlo. Io, per esempio, appena posso prendo il treno e filo a Bologna. Filerai dall'amorosa, va là, confessa. No, no, devo laurearmi l'anno prossimo anche io. Non so ancora se in storia dell'arte o in italiano, ma credo in italiano ormai. E quando ne ho voglia mi concedo un'ora di tennis. Fisso un campo a pagamento, in via del Cestello o al Littoriale. Sono campi rossi, cosa credi? Forniti di doccia calda, bar e ogni comodità. E nessuno può dire niente. Perché non fai altrettanto tu a Venezia? La questione è che per giocare a tennis e ballare ci vuole il partner, mentre io a Venezia non conosco nessuno di adatto. E poi ti dico, Venezia sarà bellissima, non discuto, però non mi ci trovo. Mi ci sento provvisoria, spaesata, un po' come all'estero. Vai a dormire dagli zii? Eh già, dormire e mangiare. Capisco. Comunque, 2 anni fa, quando a Ca' Foscari ci sono stati i littoriali, ti ringrazio di non essere venuta. Sinceramente, li considero la pagina più nera della mia vita. Perché? Dopotutto, ti dirò anzi che a un certo punto, sapendo che ti presentavi, ho nutrito il gentile pensierino di accorrere a fare un po' di clac per la bandiera. Ma senti piuttosto, ti ricordi di quella volta sulla Mura degli Angeli, qui fuori, l'anno che sei stato rimandato a ottobre in matematica? Dovevi aver pianto come un vitello, povero santo, avevi certi occhi. Volevo consolarti. Mi era perfino venuto in mente di farti scavalcare il muro, di farti entrare in giardino. E per quale ragione non sei entrato poi? So che non sei entrato, ma non ricordo perché. Perché qualcuno ci ha sorpresi sul più bello. Ah, sì, Perotti, quel cane di Perotti, il giardiniere. Giardiniere? Cocchiere, mi sembrava. Giardiniere, cocchiere, chauffeur, portinaio, tutto. È ancora vivo? E come? E il cane? Il cane vero? Quello che abbaiava? Chi? Jor? Sì, il danese. Anche lui vivo e vegeto. Aveva ripetuto l'invito del fratello. Non so se Alberto ti ha poi telefonato, ma perché non vieni a fare un po' di palleggio a casa nostra? Però senza insistere e senza affatto accennare, a differenza di lui, alla lettera del marchese Barbicinti. Non accennò a nient'altro che al puro piacere di rivedersi dopo tanto tempo e di godere assieme, in barba a tutti i divieti, quanto di bello restava da godere della stagione. Non ero stato il solo a essere invitato. Quando, quel sabato pomeriggio, evitati la Giovecca e il centro, sbucai in fondo a Corso Ercole I, provenendo da Piazza della Certosa, notai subito che, davanti al portone di casa Finzi Contini, sostava all'ombra un piccolo gruppo di tennisti. Erano 4 ragazzi e una ragazza, anch'essi in bicicletta. Frequentatori abituali del circolo Eleonora d'Este, come mi resi conto immediatamente. Tutti, a differenza di me, erano già in perfetta tenuta di gioco. Indossavano sgargianti pullover, pantaloncini corti, soltanto uno, un tipo con la pipa più anziano degli altri, sui 25, e che non conoscevo neanche di vista, portava calzoni lunghi di lino bianco e una giacca di fustagno marrone. In attesa di essere fatti entrare, dovevano aver già premuto più volte il bottone del campanello d'ingresso, ma senza alcun risultato, era chiaro. E adesso, in segno di allegra protesta e incuranti di farsi notare dai rari passanti, ogni tanto cessavano di parlare ad alta voce e di ridere per mettersi a suonare ritmicamente tutti insieme i campanelli delle biciclette. Frenai, tentato di tornarmene indietro. Era ormai troppo tardi, però. Accortisi di me, già in 2 o 3 avevano smesso di suonare i campanelli e mi guardavano incuriositi. Uno poi, nel quale, avvicinandomi, ravvisai d'un tratto Bruno Lattes, stava addirittura facendo segnali con la racchetta brandita in cima al braccio lungo e magrissimo. Intendeva farsi riconoscere. Non eravamo mai stati amici, più giovane di me di 2 anni, nemmeno a Bologna, a lettere, ci eravamo mai incontrati molto spesso, e insieme esortarmi a venire avanti. Andai a fermarmi proprio di fronte a lui. Buongiorno, dissi. Come Come mai tanto concorso da queste parti oggi? È finito il torneo sociale? Oppure mi trovo al cospetto di una schiera di eliminati? Avevo parlato a tutti e a nessuno, credo sogghignando, col braccio sinistro appoggiato alla liscia quercia del portone e senza staccare i piedi dai pedali. Nel mentre li osservavo ad uno, l'Adriana Trentini, coi bei capelli color rame sciolti sulle spalle, e le lunghe gambe, magnifiche, certo, ma dalla pelle troppo bianca, sparsa delle strane chiazze rosse che sempre le venivano quando era accaldata. Il giovanotto taciturno con pipa, pantaloni di lino e giacca marrone. Chi era? Non certo un ferrarese, mi dissi subito. Gli altri due ragazzi, molto più giovani di costui e della stessa Adriana, forse ancora al liceo o all'istituto tecnico, e perciò appunto per essere venuti su durante l'ultimo anno, nel corso del quale mi ero estraniato a grado da ogni ambiente della città a me semi ignoti, e infine Bruno, lì davanti, sempre più alto e secco. Sempre più simile, di carnagione scura come era, a un giovane negro vibrante e apprensivo, in preda ad una tale agitazione nervosa anche quel giorno da riuscire a trasmettermela attraverso il lieve contatto delle gomme anteriori delle nostre due biciclette. Passò rapida tra me e lui l'inevitabile occhiata di ebraica connivenza che fra ansia e disgusto già prevedevo. Allora aggiunsi, guardandolo con intenzione. Voglio sperare che prima di azzardarvi a venire a giocare in un posto diverso abbiate chiesto il permesso al signor Barbicinti. Lo sconosciuto non ferrarese, evidentemente meravigliato del mio tono sarcastico, o forse a disagio, ebbe un piccolo movimento al mio fianco. Invece che moderarmi, la cosa mi eccitò ancor più. Rassicuratemi, da bravi. Insistei. Si tratta da parte vostra di una scappata consentita o viceversa di un'evasione? Ma come? Proruppe l'Adriana con l'abituale sventatezza. Innocente, sì, ma non per questo meno offensiva. Non sai quello che è successo mercoledì scorso durante la finale del doppio misto? Non dire che non c'eri, su, e piantala con le tue eterne arie da Vittorio Alfieri. Mentre noi giocavamo, ti ho visto tra il pubblico, ti ho visto benissimo. Non c'ero affatto, ribattei seccamente. Non bazzico la zona da un anno almeno. E perché? Perché ero certo che un giorno o l'altro sarei stato buttato fuori ugualmente. Non mi sbagliavo, difatti. Ecco qua la lettera di congedo. Tirai fuori dalla tasca della giacca la busta. Immagino che l'avrai ricevuta anche tu, continuai, rivolto a Bruno. Soltanto a questo punto l'Adriana parve ricordarsi che ero anche io nelle stesse condizioni del suo compagno di doppio. Ne fu visibilmente dispiaciuta, ma la prospettiva di poter comunicarmi qualcosa di importante, qualcosa su cui evidentemente mancavo di notizie, travolse subito in lei ogni altro pensiero. Era capitata una cosa molto antipatica, cominciò a raccontare, mentre uno dei due ragazzi più giovani tornava a schiacciare il piccolo, aguzzo pulsante di corno nero del campanello d'ingresso. Forse non lo sapevo, ma lei e Bruno, nel torneo sociale che si era testé concluso al circolo del tennis, avevano raggiunto niente meno che la finale, risultato al quale mai e poi mai, tanto lei quanto Bruno, avrebbero pensato di poter aspirare. Basta. L'incontro decisivo era in pieno svolgimento e le cose, ancora una volta, avevano cominciato a prendere la più incredibile delle pieghe. C'era da sgranare tanto d'occhi, parola d'onore. Desirée Baggioli e Claudio Montemezzo, 2-15, messi in difficoltà da una coppia di non classificati, al punto di perdere il primo set per 10-8 e di trovarsi a mal partito anche nel secondo, quando, d'un tratto, per iniziativa improvvisa del marchese Barbicinti, giudice e arbitro del torneo, la partita era stata interrotta. Erano le 6. Ormai non ci si vedeva niente bene, d'accordo. Non così male, in ogni caso, che non fosse possibile tirare avanti per almeno altri due games. Si fa così, santa pace. a 4 giochi a 2 del secondo set di una gara importante non si ha il diritto, fino a prova contraria, di mettersi a gridare di punto in bianco «Alt!», di entrare in campo a braccia alzate proclamando sospesa la partita per sopraggiunta oscurità e rimandandone il proseguimento e la conclusione al pomeriggio del giorno successivo. D'altronde non era affatto in buona fede il marchese, questo s'era capito benissimo, che se lei, l'Adriana, non lo avesse notato già al termine del primo set confabulare animatamente con quell'anima nera di Gino Cariani, il segretario del GUF, si erano messi un po' in disparte dalla gente, accanto alla palazzina degli spogliatoi, il quale Cariani, forse per dar meno nell'occhio, volgeva le spalle al campo come a significare «Giocate, giocate pure, non è di voi che stiamo parlando». A lei sarebbe bastata la faccia che aveva il marchese nel momento in cui si era chinato per aprire il cancelletto d'ingresso, così pallida e stravolta che mai gliene aveva veduta una simile, una faccia da FIFA fan 90, altro che per indovinare come la sopraggiunta oscurità fosse soltanto un pretesto, una povera scusa. C'era da dubitarne, del resto? Della partita interrotta non si era nemmeno più parlato, giacché anche Bruno, la mattina del giorno dopo, aveva ricevuto l'identico espresso che avevo ricevuto io. Come volevasi dimostrare. E lei, Adriana, era rimasta talmente disgustata da tutta questa faccenda, così indignata, oltre a tutto, che si avesse il cattivo gusto di mescolare allo sport e la politica, che aveva giurato di non metterci più piede all'Eleonora d'Este. Avevano qualcosa contro Bruno? Se ce l'avevano con lui, potevano vietargli di iscriversi al torneo, dirgli francamente: «Siccome le cose stanno così e così, spiacentissimi, non possiamo accettare la tua iscrizione». Ma a torneo iniziato, anzi quasi finito, e a un pelo per giunta che lui vincesse una delle gare, non dovevano assolutamente comportarsi come si erano comportati. 4-2. Che porcheria! Una porcheria simile era roba da Zulù, non da persone ben educate e civili. L'Adriana Trentini parlava, infervorata, animandosi via via, e anche Bruno interloquiva ogni tanto, aggiungendo particolari. Prima che l'Adriana e Bruno avessero finito di mettermi al corrente di questi avvenimenti, a un certo punto l'Adriana trovò anche modo di presentarmi al giovanotto forestiero, tale Malnate, Giampiero Malnate, milanese, chimico di fresca nomina presso una delle nuove fabbriche di gomma sintetica della zona industriale. Il portone era stato finalmente aperto. Era apparso sulla soglia un uomo di una 60 anni, grosso, atticciato, con capelli grigi tagliati corti, da cui il sole delle 2:30, prorompendo a fiotti attraverso il varco verticale dell'uscio, strappava riflessi di metallico nitore, e baffi ugualmente corti e grigi sotto il naso carnoso e violaceo, un po' alla Hitler, mi venne fatto di pensare, naso e baffetti. Era proprio lui, il vecchio Perotti, giardiniere, cocchiere, chauffeur, portinaio, tutto, come aveva detto Nicole. Niente affatto mutato nel complesso dai tempi del Guarini, quando, assiso in serpa, aspettava impassibile che l'antro buio e minaccioso dal quale, impavidi, col sorriso sulle labbra, i suoi signorini erano stati inghiottiti, si decidesse finalmente a restituirli, non meno sereni e sicuri di sé, alla vettura tutta cristalli, vernici, nichelature, stoffe felpate, legni di pregio, simile davvero a una teca preziosa della cui conservazione e guida egli era responsabile unico. I piccoli occhi, per esempio, grigi anche essi e pungenti, scintillanti di dura, contadinesca arguzia veneta, ridevano bonari sotto i folti sopraccigli quasi neri, esattamente come una volta. Ma di che cosa, adesso? Che fossimo stati lasciati lì, ad attendere 10 minuti almeno? Oppure di lui stesso, che si era presentato in giacchetta di rigatino e guanti di filo bianco, nuovi di zecca, questi, inaugurati magari per l'occasione? Eravamo quindi entrati, accolti di là dal portone, subito richiuso con un gran colpo per opera del solerte Perotti, dai pesanti latrati di Ior, l'Arlecchino bianco e nero. Veniva giù per il viale d'accesso, il danese, trottando straccamente alla nostra volta con un'aria per nulla minacciosa. Tuttavia, Bruno e Adriana tacquero immediatamente. «Non morderà mica?» chiese Adriana intimorita. «Non si preoccupi, signorina», rispose Perotti, «coi tre o quattro denti che gli sono rimasti, cosa vorla che sia buono a mordere ormai? Sì e no, la polenta». E mentre il decrepito Ior, arrestatosi in mezzo al viale in posa scultorea, ci fissava intensamente coi suoi due gelidi occhi senza espressione, uno scuro e uno azzurro chiaro, Perotti cominciò a scusarsi. Gli dispiaceva di averci fatto aspettare, disse, ma la colpa non era sua, bensì della corrente elettrica che ogni tanto mancava. Fortuna che la signorina Micole, accortasene, lo aveva subito mandato a vedere se per caso non fossimo già arrivati, nonché della distanza di più di mezzo chilometro, purtroppo. Lui, in bicicletta, non sapeva andarci, ma quando la signorina Micole si era messa in testa una cosa, sospirò, levò gli occhi al cielo, sorrise, chissà perché, ancora una volta, scoprendo tra le labbra sottili una dentatura ben altrimenti compatta e forte che non quella del danese, e intanto ci indicava col braccio il viale, che dopo un centinaio di metri si inoltrava dentro un folto di canne d'India. Anche a poter usare la bicicletta, avvertì, tre o quattro minuti bisognava sempre metterceli, soltanto per arrivare al palazzo. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.